24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paolo Piacenza all'appuntamento odierno con 24 ore in Europa. Ancora la Libia in evidenza, risolta la crisi degli ostaggi, dei giornalisti ostaggi, si continua a cercare Gheddafi, che tuttavia beffa gli inseguitori con un messaggio audio in TV, mentre Tripoli continua a essere terreno di scontri. Intanto in Europa il Consiglio Nazionale Transitorio Libico tesse la tela degli accordi con i governi europei per il dopo guerra. Faremo anche il punto sulla giornata delle borse europee, condizionate da voci prive di fondamento su ipotesi di un downgrading della Germania, accenderemo un riflettore sulla manovra francese e per il calcio racconteremo l'esito dei sorteggi della Champions League. Andiamo dunque in Libia e partiamo dal racconto dell'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, che si trova a Tripoli. Tripoli è in mano ai ribelli, ma la battaglia non è ancora finita. Qui, a Bab al-Azizia, l'enorme bunker fortificato di Gheddafi conquistato dai ribelli, diversi cecchini del Reis sono ancora nascosti in alcune parti del bunker. Nell'area settentrionale a un certo punto viene sferrato un attacco, un missile vola sopra le nostre teste, poi qualche tiro di mortaio e spari dei cecchini. I ribelli rispondono al fuoco in modo disordinato, usando ogni mezzo a loro disposizione, anche batterie contraeree, poco utili in questo caso, ma sono i cecchini nascosti in vari quartieri popolari della città la maggior fonte di preoccupazione. Molti di loro sono mercenari, imprigionati, che cercano una via di fuga. Altri sono professionisti, votati al martirio, fedelissimi di Gheddafi. Insieme al capitano Mohammed partecipiamo a un giro di ronda. Lui, militare di carriera, è incaricato di identificarli e coordinare i comitati dei ribelli specializzati nella loro caccia. Più tardi, in un quartiere popolare vicino a Bab al-Azizia, un cecchino spara contro ogni cosa in movimento, da un tetto. Insieme ai ribelli partecipiamo alla sua caccia. I ribelli si nascondono dietro gli alberi, poi procedono e di nuovo si riparano dietro i muri. Un civile viene ferito gravemente sotto i nostri occhi e portato via in ambulanza. Poi i rivoltosi accerchiano il nemico e alla fine lo stanano. Ma quanti sono i cecchini rimasti in città? Questa è una domanda a cui nessuno sa rispondere, ci spiega il comandante Mohammed. In alcuni casi le più pericolose sono ragazze minorenni, straniere, fedelissime del Raïs, addestrate molto bene per questo compito. Occorre avere pazienza, stanarli uno ad uno. Ci vorrà del tempo, conclude il comandante. Roberto Bongiorni, GR24, Il Sole 24 Ore, Tripoli. La liberazione dei quattro giornalisti italiani fermati da miliziani lealisti è avvenuta in mattinata. Per il resto della giornata le notizie si sono concentrate sulla ricerca di Gheddafi. Gli insorti nel pomeriggio hanno annunciato di averlo circondato nel quartiere residenziale di Abu Salim, in cui sono penetrati in serata. Altre notizie ipotizzano invece che Gheddafi si trovi a Sirte, sua città natale. Su Abu Salim sono cadute anche le bombe della NATO. Il colonnello, in un messaggio audio trasmesso dalla TV di Stato Libica, ha lanciato però un nuovo appello alla lotta armata per purificare Tripoli dai ribelli. Queste le sue parole. L'altra metà della partita libica si gioca in questi giorni nelle capitali europee. Continua infatti il tour del premier del Consiglio Nazionale Transitorio Libico, Mahmoud Jibril, che a Roma ha visto il premier italiano Berlusconi. I primi milioni scongelati, i primi accordi con l'ENI, i primi impegni col futuro governo. Sistemate le bandiere della nuova Libia, Silvio Berlusconi accoglie il primo ministro di Tripoli e a Mahmoud Jibril promette ogni sostegno. Il primo è quello che ora a loro sta più a cuore. Abbiamo dato la disponibilità del nostro governo allo scongelamento dei fondi di Stato libici con una prima tranche immediatamente disponibile di 350 milioni. We need an urgent 4 miliardi aveva già chiesto il Consiglio Transitorio a tutto il mondo, soldi per la transizione e la ricostruzione, ed è questo l'appello urgente che Jibril ha ripetuto dall'Italia a nome di un paese senza servizi ma con tante ricchezze congelate. Un aiuto arriverà lunedì anche dall'ENI di Paolo Scaroni. Anticipare benzina del gasolio da raffineria italiana a fronte di un pagamento futuro che riceveremo in petrolio. Il gas è ora la priorità. Quanto al petrolio, Scaroni dice di non essere preoccupato, anche se serviranno tra i 6 e i 18 mesi per la ripartenza. Nel frattempo l'Italia stipula anche un comitato d'accordo con la Libia e forma il suo esercito, come spiega a Radio 24 il ministro degli esteri Frattini. Già abbiamo mandato dei team di addestratori militari a Bengasi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo di borse. I mercati del vecchio continente hanno vissuto una giornata condizionata da un brusco flash crash della borsa tedesca, con l'indice DAX 30 sceso del 4% nel giro di pochi minuti. Le voci poi smentite di un possibile downgrade della Germania e di uno stop generale alle vendite allo scoperto sulla borsa tedesca hanno trascinato al ribasso tutte le piazze del vecchio continente ieri in chiusura. Questo dopo che gli indici invece avevano passato la maggior parte della seduta in terreno positivo. Il DAX 30 a Francoforte è arrivato a perdere fino a più del 4%, prima di recuperare leggermente e tanto è bastato per allarmare gli investitori che hanno fatto scattare le vendite. Piazza Affari è riuscita comunque a limitare di più i danni con un meno 0,25%. Grazie al buon andamento di molti titoli finanziari, sostenuti dai risultati semestrali della francese Crédit Agricole. Unicredit ha guadagnato l'1,7%, Intesa San Paolo l'1,6% e ancora meglio hanno fatto Montepaschi più 2,9% e Banco Popolare più 2,85%. Flavia Carletti, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Germania ha confermato i limiti attualmente in vigore sulle vendite allo scoperto, mentre l'Italia ha deciso di allungare i tempi del blocco temporaneo già deciso dalla Consob, analoga decisione delle autorità per i mercati di Francia, Spagna, Belgio e Grecia. E ora andiamo in Francia, dove si precisano i contorni della manovra annunciata dal governo Fillon. Meno sgravi e benefici fiscali, supertassa per i paperoni, riduzione delle spese di funzionamento di Stato ed enti locali, la ricetta francese per la riduzione del debito e soprattutto per evitare di finire a giocare in Serie B come l'amico americano, contiene questi ingredienti. Il provvedimento più atteso è senza dubbio il contributo straordinario sui redditi elevati, una tassa del 3% sui superricchi, quelli i cui redditi superano i 500.000 euro annui. Il secondo ingrediente prevede la riduzione di una lunga serie di agevolazioni fiscali alle imprese. Sarà inoltre rivisto il meccanismo di tassazione delle plusvalenze immobiliari. Infine un aumento immediato del 6% sul prezzo delle sigarette e un'accisa sulle bevande zuccherate da cui si ricaveranno 800 milioni. A questi ingredienti si aggiungerà la riduzione dei budget ministeriali. Nei panni dello chef, il premier François Fillon, che presentando la manovra ha rimarcato la differenza tra il piano francese e quello di altri paesi europei come l'Italia, costretti ad inventarsi una ricetta di gran fretta ed urgenza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la Germania, anche il Regno Unito ha trovato un'intesa con la Svizzera. Chi esporta capitali sarà sottoposto a un'aliquota sul capital gain, ma gli sarà garantito l'anonimato e sarà la banca a fare da esattore. Si chiama Rubik, il piano elvetico alla base dei nuovi accordi fiscali, come il gioco del cubo di plastica da ricomporre. Come per Rubik, anche qui ogni tassello deve andare al suo posto con un'operazione articolata. Gli stati firmatari, per ora Germania e Regno Unito, ottengono alcuni miliardi di franchi. Per i capitali depositati in Svizzera in passato e non dichiarati dai loro contribuenti, Berlino e Londra riscuoteranno tra il 20 e il 25% in media di questi patrimoni. Per il futuro, cioè dal 2013, Germania e Regno Unito incasseranno rispettivamente il 26% e tra il 27 e il 48%, a seconda del tipo di reddito finanziario, dei rendimenti dei capitali, nel caso questi continuino ad essere non dichiarati. Le banche svizzere faranno da esattori, la nuova imposta liberatoria è infatti anonima, la Svizzera mantiene l'attuale segreto bancario. Rubik amplia e supera per certi aspetti l'euro ritenuto in vigore, frutto di accordo tra Svizzera e Unione Europea. Altri paesi, tra cui Austria, Norvegia, Grecia, sono ora interessati a Rubik. I capitoli principali sono però a questo punto Francia e Italia. Parigi per adesso si oppone, l'Italia sin qui si è pronunciata contro accordi di questo tipo con la Svizzera perché mantengono il segreto e fanno cadere l'obiettivo dello scambio automatico di informazioni fiscali. In settembre vi saranno colloqui italo-elvetici dopo un lungo periodo di assenza di accordi tra Roma e Berna. A quel punto forse si capirà meglio se il cubo aggiungerà altri tasselli oppure no. Lino Terlizzi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Lugano. Chiudiamo con il calcio, giornata di sorteggi per la Champions League e per le italiane la strada è subito in salita. Di questi tempi meglio non snobbare nessuno, visto che il nostro calcio sta perdendo velocemente competitività. Il sorteggio di Monte Carlo non ha però voltato le spalle a Milan e Inter a patto di non buttarsi via, mentre ha consegnato un debutto in Champions aspro come una montagna al Napoli. Il Barcellona nel girone del Milan è la sfida più affascinante e difficile possibile, equilibrata però dalle presenze insieme ai marziani anche di Bate Borisov e Victoria Pilsen. Al Milan insomma è andata bene, l'Inter, che era l'unica testa di serie, avrà qualche grattacapo in più con i campioni di Francia del Lille, il CSKA Mosca e turchi del Trabzonspor. Chi certamente non può sorridere è il Napoli. L'apprendistato nell'Europa che conta sarà durissimo. Bayern Monaco, Villarreal e Manchester City. Il peggio che potesse capitare alla squadra di Mazzarri. Ma in fondo è bello anche così. L'Italia l'anno prossimo perderà un posto in Champions. Se riscossa dovrà essere, deve passare per la sfida ai migliori. Si parte il 13 e 14 settembre. Finale a Monaco di Baviera a metà maggio. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un grazie in regia a Mauro De Angeli. Un saluto da Paolo Piacenza. 24 Ore in Europa. In collaborazione con Euronet.